Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi ricordiamo il 250esimo anniversario della pubblicazione di un libretto che ebbe uno straordinario successo, Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. Il libretto fu pubblicato a Livorno nel luglio del 1764, per l'appunto dico libretto per riferirmi al numero delle pagine, abbastanza esiguo, ma non certo all'importanza di questa pubblicazione, che ebbe invece un'influenza enorme all'epoca per la critica che svolse ai sistemi penali di quell'epoca. Ne era autore appunto Cesare Beccaria, vissuto tra il 1738 e il 1794, appartenente a una nobile famiglia milanese, che fu una specie di meteora nel panorama intellettuale dell'epoca, perché dopo quest'opera, che ebbe un successo strepitoso e universale, non lasciò più nulla di memorabile se non il ricordo di alcune esperienze amministrative nella sua città. Adesso la sua opera in questa occasione torna, patrocinata dalla sezione italiana di Amnesty International, con la prefazione di Antonio Marchese, pubblicato da Castelvecchi, 152 pagine, 12 euro. Il libro è un libro tuttora attualissimo, di cui adesso parleremo proprio con l'autore, in questa intervista impossibile, in cui assume le parti di Cesare Beccaria il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che prima di essere parlamentare e sindaco è stato egli stesso un giurista. Buonasera signor Marchese, Cesare Beccaria. Buonasera, buonasera a lei. Marchese Beccaria, si sarebbe mai immaginato 250 anni fa, quando pubblicò questo libretto, che questo avrebbe avuto un successo universale, planetario? Ma direi proprio di no. Sicuramente volevo lanciare un sasso nello stagno, come spesso si dice anche da tempi lontani. Certo è che all'inizio è stata un po' un'esperienza che è una scrittura che derivava da colloqui, soprattutto con Pietro Verri, con Alessandro Verri, che peraltro poi si è trovato in disaccordo con alcune mie prese di posizione. Del resto voglio ricordare che Alessandro Mazzoni, mio nipote, lo chiamava il libricino, proprio perché voleva dire che non avrebbe avuto molto spazio, soprattutto per le future generazioni. Invece dalla Francia in poi è diventato un punto di riferimento che ha un'attualità anche rispetto all'attualità di adesso e all'attualità del futuro. Allora veniamo a questa attualità. Dal suo osservatorio attuale, come giudica la condizione del sistema penale sul quale lei si scagliò appunto con questo suo libricino? La pena di morte è ancora vigente in molti paesi, la situazione delle carceri è spesso vergognosa anche nel nostro paese. Come attualizzerebbe oggi il suo scritto? Mi verrebbe da dire come prima e purtroppo come adesso, nel senso che gli stessi temi, i problemi, le possibili soluzioni che avevo proposto per una giustizia penale più equa, più giusta, più garantista, alla fine non è riuscita a incidere, se non negli studi degli esperti, dei giuristi più raffinati, ma purtroppo nella situazione concreta. La situazione di allora è come la situazione di oggi. È vero che molti paesi si sono fatti passi avanti rispetto alla pena di morte, ma sulla concezione della pena, come soprattutto come punizione anziché come deterrente, sul fatto che la pena ancora oggi è spesso vista come pena esclusivamente carceraria, le nostre riflessioni o le mie riflessioni sul libricino, sul libro che poi ha avuto tanto successo, Dei delitti e delle pene, non hanno trovato un seguito nella legislazione attuale, non solo in Italia ma anche in tanti altri paesi. Ecco, la nostra è una società molto cambiata da quella dei suoi tempi, dobbiamo riconoscerlo. Come mai allora è così difficile far cambiare le abitudini e anche un po' quella che noi chiamiamo l'opinione pubblica nei confronti della concezione carceraria? Perché purtroppo spesso, o troppo spesso, la politica, l'emotività, l'emergenza ha preso il sopravvento su problemi che sono fondamentali per una giustizia che sia realmente efficace e soprattutto che non sia controproducente. Basti pensare al fatto che ancora oggi c'è sicuramente un abuso della carcerazione preventiva, che un grande giurista ha definito la lebbra del processo penale, e che a fronte di norme anche molto serie, molto approfondite, molto limitative, basti pensare che per una misura di custodia cautelare oggi il codice dice che ci devono essere specifiche ed inderogabili esigenze attenenti all'indagine, il pericolo di fuga, il rischio concreto di commissione di nuovi reati, eppure troppo spesso si usa la custodia cautelare, la carcerazione preventiva, come anticipazione di una pena. Lo scrivevo tanti anni fa e purtroppo ancora oggi si vede che questa è la realtà che non si riesce a superare, perché spesso si pensa di dare una risposta a problemi anche sociali con il codice penale e con una sanzione di carattere carcerario. Vedo che lei è molto aggiornato sulla situazione attuale. Lei lo sa che quando si parla di carcerazione preventiva spesso il suo nome viene appunto evocato da coloro che criticano gli eccessi della custodia cautelare? Sì, purtroppo devo dire che vedere dopo tanto tempo che quelle parole che avevano non immediatamente ma negli anni, nel corso dei decenni, visto la condivisione da parte dei giuristi, degli operatori del diritto, avvocati, magistrati, nei convegni, poi nella pratica quotidiana vengono disattesi. Ed è un peccato perché vi sono state molte riflessioni che, prendendo dalle mie parole, poi sono arrivate anche a norme di legge sicuramente molto puntuali, molto precise, molto capaci di coniugare le garanzie per l'imputato, che deve essere considerato e deve essere ritenuto colpevole o non colpevole, innocente, che sono due cose leggermente differenti, alla fine non hanno sortito l'effetto nell'applicazione quotidiana. Questo è proprio un problema di come troppo spesso si usa la giustizia per finalità che non hanno nulla a che vedere con la giustizia. Spesso si strumentalizza per motivi politici la giustizia, non tanto e non solo da parte della magistratura, ma da parte della politica, da parte del legislatore, che quando non sa come risolvere un problema pensa che la soluzione possa essere quella di creare un nuovo reato, il che è del tutto opposto a quello che già ai miei tempi sostenevo. Nel suo libro lei a un certo punto denuncia un'aberrazione, scrive che non vi è cosa più pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo lo scrive perché secondo lei in questo modo si vede la sorte di un cittadino cambiare spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali. Insomma, lei aveva anche già colto i problemi relativi alla certezza del diritto. Sì, la certezza del diritto collegata alla certezza della pena in caso di condanna e quindi di accertamento delle responsabilità di un imputato, ma anche una pena equa, una pena che non fosse vendicativa ma che aiutasse al reinserimento del colpevole. Cosa che peraltro si dimostra anche concretamente, che una pena come deterrenza riesce a evitare che altri soggetti o lo stesso soggetto compia nuovi reati, e una carcerazione o una pena non particolarmente grave ma adeguata al fatto concreto che è stato commesso, al reato che è stato commesso, comporta una situazione per cui chi sconta l'intera pena in carcere ha un tasso di recidiva molto maggiore di chi sconta la pena con misure diverse, penso ai lavori socialmente utili, alla detenzione domiciliare, al risarcimento del danno, tanti strumenti che in teoria ci potrebbero essere, che in tutti i tentativi di riforma del codice penale sono stati condivisi da commissioni ministeriali istituite da governi di destra, di centro, di centrosinistra, però poi alla fine non sono state applicate. Si ha un po' paura di seguire gli insegnamenti che io avevo appreso da Pietro Verri e che poi invece purtroppo che ho cercato di far diventare sentimento comune, ma che purtroppo a parole sono spesso condivisi, ma nei fatti sono derisi o addirittura violati. Ma lei si è dato una spiegazione sul perché sia così difficile essere garantisti? Perché alla fine si trovano troppe persone che sono garantisti solo per gli amici e quindi non hanno il senso delle garanzie reali, cioè della necessità che ci siano una serie di limitazione nella interpretazione soggettiva dei fatti, ma una serie di indicazioni che possono dare la certezza, per quanto umanamente possibile, che non ci sia un errore giudiziario. E del resto lo vediamo un po' quotidianamente, in troppi casi a fronte di persone che hanno subito una carcerazione preventiva anche lunga, si arriva poi nel primo e nel secondo grado a una sentenza di assoluzione. Aggiungo che proprio per questo ritengo indispensabile che vengano mantenute, allora non si poneva il problema, ma vedendo la realtà della giustizia oggi, i due gradi di giudizio di merito e poi la Cassazione, chiaramente con alcuni limiti che possono essere quelli, ad esempio, che di fronte a una sentenza di primo grado in cui i giudici, soprattutto se sono giudici collegiali, io già allora sostenevo l'importanza del giudice collegiale, pensassero, ritenessero una persona innocente e poi ci fosse un'impugnazione. In questo caso c'è l'assurdità, perché la condanna deve essere, lo dice anche la Costituzione di oggi, al di là di ogni ragionevole dubbio, e se c'è un dubbio tra giudici di primo e di secondo grado deve prevalere quella più favorevole all'imputato, che non è il reo, è ancora imputato. A un certo punto nel suo libro lei se la prende anche con queste parole, con quello che noi oggi chiamiamo il circo mediatico giudiziario, e cioè lei disse se la prese con il dispotismo della opinione, che è l'unico mezzo per ottenere dagli altri quei beni e di allontanarne quei mali ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. Insomma, un po' di garantismo in meno pur di ottenere brutalmente certi risultati in tema di ordine pubblico, per esempio. Sì. Io forse non esagererei rispetto a questa prospettiva che pure esiste, e cioè il fatto che il giudice spesso rischia di essere non vincolato, ma essere spinto a una certa decisione sulla spinta dell'opinione pubblica. Ma direi che è ancora più grave che questo succeda a livello parlamentare, perché spesso l'introduzione di nuovi reati, l'aumento della sanzione, della gravità della sanzione, deriva da una situazione d'emergenza e non si è capito quello che io dicevo già a suo tempo, quindi tanto tempo fa, che la giustizia ha necessità non di leggi d'emergenza, ma di una riforma organica che possa veramente dare credibilità alla giustizia, limitare la discrezionalità, il che non significa elidere il libero convincimento del giudice, ma basato su elementi concreti. Su questo, diciamo, oggi la critica e l'autocritica maggiore dovrebbe farla il Parlamento. Signor Marchese, lei sa che Milano oggi è governato da una persona che chiamiamo sindaco, che è il figlio del giurista che ha introdotto un nuovo processo penale in Italia per garantire meglio i diritti degli imputati. A lei sembra che lo spirito di quel codice oggi sia pienamente rispettato? Ma mi meraviglia molto questa casualità che il sindaco di Milano sia non solo il figlio, come è stato detto, del nuovo codice di procedura penale ormai troppo invecchiato, o addirittura colui che ha presieduto una commissione ministeriale per la riforma del codice penale. La riforma del codice penale, malgrado che sia approdata in Parlamento, non è stata approvata. E se dovessi con sincerità dire che fine ha fatta la novità, la capacità di avere la presunzione di non colpevolezza come base, le garanzie come base di un giusto processo, devo dire che rispetto a quello che era il progetto iniziale della commissione presieduta dal professor Giandomenico Pisapia, purtroppo oggi è molto diversa da quella che il legislatore aveva voluto. Voglio solo ricordare che sono state modificate nel corso del tempo, sempre sulla base di elementi di emergenza, norme che erano sacrosante. E poi è intervenuta in molti casi anche la Corte Costituzionale con interpretazioni che non sempre erano da condividere, non sempre sono state condivise dai giuristi. Un'ultima domanda sulla sua città, su Milano. Lei è stato uno dei più grandi esponenti dello spirito illuministico milanese, lei stesso ha citato i fratelli Verri. Quanto sopravvive di questo spirito nella Milano di oggi? Ma direi che sopravvive nella capacità di essere capaci nel momento del bisogno di unità, di solidarietà, manca forse una visione complessiva illuministica, e cioè la capacità anche di fare le scelte che spesso possono essere, o talvolta possono essere dolorose, spesso non sono condivise dalla maggioranza della comunità locale, ma che in prospettiva possono essere utili per un cambiamento totale, un miglioramento complessivo della vita dei cittadini, ma anche della comunità intera. Grazie a Cesare Beccaria, autore dei Delitti e delle Pene, al quale ha dato la voce Giuliano Pisapia, il sindaco di Milano. Buonasera. Buonasera, grazie a tutti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo aver parlato col marchese Beccaria del suo intramontabile dei Delitti e delle Pene, vi presento alcuni romanzi che hanno come tema proprio quello della intolleranza. Comincio con un romanzo basato su un fatto autentico di un famoso scrittore americano di origine ebraica, Bernard Malamud. Il libro si intitola L'uomo di Kiev, pubblicato da Minimum Fax, 408 pagine, 14,50 euro, ed è tradotto da Ida Omboni. Questo libro del 1966, che era comparso in Italia nel 1968, poi se ne erano un po' perse le tracce nel nostro paese. Qui si narra la storia di un ebreo che nel 1911 cerca fortuna a Kiev spacciandosi per un gentile, ma lo stratagemma non servirà a evitargli nel pieno di una delle persecuzioni contro gli ebrei che punteggiarono la Russia zarista, un processo nel quale addirittura accusato di un omicidio rituale, dal quale si difenderà fino alla fine. Come osserva Alessandro Piperno nella sua prefazione al libro, in realtà Malamud qui racconta la storia di Giobbe, ossia, scrive Piperno, dell'uomo su cui si abbattono mille calamità che lui accoglie con stoicismo. E troviamo in questo libro una testimonianza dello stile di Malamud e della sua capacità di rendere con freddezza il clima di fanatismo che ben presto avrebbe conquistato tutta l'Europa, di cui adesso sentite una testimonianza. Sono innocente! Nessun ebreo è innocente, e tantomeno un assassino rituale. Per giunta è risaputo che un agente del Kahal, il governo internazionale ebraico segreto, coinvolto in una cospirazione clandestina con l'organizzazione sionista mondiale, l'alleanza di Herzl e la massoneria russa. Abbiamo anche ragione di credere che i suoi padroni siano in trattative con gli inglesi per rovesciare il legittimo governo russo e mettersi a capo del nostro paese e del nostro popolo. Non siamo precisamente dei semplici. Conosciamo le vostre mire. Abbiamo letto il protocollo dei savi anziani di Sion e il manifesto dei comunisti. E abbiamo capito a fondo i vostri propositi rivoluzionari. Io non sono un rivoluzionario, sono un povero uomo senza esperienza. Chi ne sa niente di quella roba? Io vado in giro a fare riparazioni. Può negare quanto vuole, noi sappiamo la verità. Gli ebrei dominano il mondo e noi sentiamo il peso del loro giogo. Io personalmente mi considero sotto il dominio degli ebrei, sotto il dominio del pensiero ebraico, sotto il dominio della stampa ebraica. Parlare contro i crimini degli ebrei significa attirarsi l'accusa di essere un membro delle centurie nere, un oscurantista, un reazionario. Io non sono niente di tutto ciò. Io sono un patriota russo. Io amo lo zar di tutte le Russie. Una straordinaria testimonianza letteraria del clima di intolleranza e di fanatismo è il romanzo di Leon Feuchtwanger, che si intitola I fratelli Oppermann, è pubblicato da Schirà, 350 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Erwinio Pocar. Questo romanzo del 1933, di cui è autore un noto scrittore tedesco, anch'egli di origine ebraico, che è ambientato nella Germania dei mesi nei quali Hitler sale appunto al potere. In Italia questo libro fu pubblicato, nonostante i tentativi di Mondadori sotto il fascismo di darlo alle stampe anche nel nostro paese, soltanto nel 1946. L'autore era nato nel 1884, fu costretto all'esilio mentre si trovava fuori dalla Germania che l'aveva condannato a morte, e morì negli Stati Uniti nel 1958, dove provò anche l'intolleranza che manifestarono anche nei suoi confronti i maccartisti. Protagonisti della saga, gli Opperman, appartengono a una famiglia benestante con trascorsi patriottici, che vivono appunto i quotidiani e impercettibili cambiamenti che si verificano nelle loro vite, chi è industriale, chi è medico, chi è intellettuale, a causa appunto dell'avvento del nazismo che comincia a perseguitare gli ebrei. Non subito questi cambiamenti sono percepiti e si sembrano quasi delle esplosioni passeggere di collera e di intolleranza. Poi chi a scuola, chi in ospedale, chi in fabbrica e chi più in generale nella società vede stringersi intorno a sé il cerchio. E il libro rappresenta una ricostruzione esemplare della generalizzata indifferenza, ma anche dell'autentico terrore che il nuovo regime riesce a imporre alla Germania. È particolarmente riuscita l'illustrazione di come l'opinione pubblica venga piegata sulla scorta del libro Mein Kampf, che fa un po' da guida ideologica per capire i meccanismi che portano alla persecuzione anche in questo libro. Uno dei fratelli, Opperman, riuscirà a scappare, ma preferirà a un certo punto tornare addirittura in Germania per documentare quanto sta avvenendo e lasciare un memoriale, una decisione che gli costerà cara. E qui, nelle righe che adesso vi propongo, troviate una testimonianza della beata e suicida illusione che favorì appunto l'ascesa di Hitler. Passarono due belle ore. Il loro disgusto scomparve. Una nazione che per secoli si era dedicata ai libri come quelli che erano lì raccolti non poteva lasciarsi accalappiare dal balbettio dei protocolli e di Mein Kampf. Era stata prudenza superflua a seguire il consiglio del Mulheim e François non aveva alcun motivo di preoccuparsi dell'esito del caso Vogelsang. Gustav aveva ragione. Il popolo era composto nella maggior parte di gente come il meccanico Pachnicke, non di quella gentaglia che seguiva i Lanzichenecchi. Ripensarono entrambi alle parole del moribondo. «Anche se sapessi di dover subire la medesima sorte, direi di nuovo quello che ho detto». Così pensava il popolo e non come il signor Vogelsang. Il popolo era per la ragionevolezza e non abboccava le chiacchiere gonfie del Führer. Sereni, tranquilli e fiduciosi, immaginarono scherzando come il Führer sarebbe andato a finire, se come imbonitore da baracconi o come agente d'assicurazioni. Il 30 gennaio il presidente del Reich nominava cancelliere l'autore del libro Mein Kampf. Sul fanatismo e sui guasti che questo può provocare vi segnalo di Erich Hoffer, che è uno scrittore americano vissuto tra il 1902 e il 1983, Il vero credente sulla natura del fanatismo di massa, pubblicato da Castelvecchi, 190 pagine, 22 euro, tradotto da Stefano Musilli. È un libro che alla sua pubblicazione ebbe un enorme successo, nel quale vengono esaminate le caratteristiche comuni ai movimenti di massa di qualunque natura essi siano. Se ne studia l'attrattività, i meccanismi di adesione rivolti soprattutto ai poveri, ma anche agli egoisti sfrenati, come li chiama l'autore, agli ambiziosi, agli annoiati, ai peccatori, e la spinta allo spirito di sacrificio attraverso agenti unificanti che Hoffer individua nell'odio, nella leadership, nell'azione e nel sospetto. Nascono così i nuovi credenti, esemplificati da Hoffer in queste categorie: comunisti, nazisti, fascisti, giapponesi o cattolici. E una testimonianza delle persecuzioni anti-ebraiche troviamo nel libro di Maria Luisa Giribaldi e Rosemary Sardi, Bele sì, proprio qui, Ebrei ad Asti, pubblicata da Morcelliana, 238 pagine, 22 euro, nel quale si esamina l'esperienza della comunità ebraica di Asti, particolarmente interessante per collocare quella comunità nella storia dell'ebraismo italiano e poi nella tragedia della Shoah. Una tragedia di cui, di nuovo, come abbiamo visto nel libro che ha protagonista la famiglia Opperman, si stentavano a cogliere, come scrive Franco De Benedetti nella prefazione al libro, i tratti anticipatori. Nessuno, scrive De Benedetti, neanche chi guardava con angoscia cosa stava succedendo in Germania, poteva immaginare quello che sarebbe successo. E a noi che lo sappiamo, aggiunge, che si stringe il cuore quando guardiamo le fotografie e i film di quegli anni. Ritraggono vecchiaie serene, adulti ottimisti, giovani spensierati, ma il sogno si sarebbe presto interrotto. E a questo punto il confettino. Il 31 luglio ricorre il 70° anniversario della morte di un scrittore popolarissimo anche fra i lettori più giovani, cioè Antoine de Saint-Exupéry, che si inabissò col suo aereo nel Mar Tirreno appunto 70 anni fa. La sua vita troviamo nel libro Il pilota e il piccolo principe di Peter Sis, che è pubblicato da Adelphi, tradotto da Michele Orti Manara, 18 euro, nel quale si ripercorre la vita avventurosa dello scrittore caro a tantissimi lettori giovani e adulti. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto due titoli a opera di due personaggi pubblici. Il primo è Antonio Patuelli, banchiere, presidente dell'ABI, che ha scritto Banche, cittadini e imprese, pubblicato da Rubbettino, 126 pagine, 9 euro, che vuole mettere alla portata di tutti alcuni dei temi che caratterizzano il rapporto tra questi tre soggetti. L'altro personaggio pubblico è Francesco Caio, da poco nominato amministratore delegato di Poste Italiane, in precedenza super commissario dell'Agenda Digitale Italiana, che di questa esperienza parla nel libro Lo Stato del Digitale, pubblicato da Marsilio, 90 pagine, 10 euro. Parla appunto di questa esperienza per accelerare la digitalizzazione del nostro paese, un obiettivo, scrive l'autore, che è alla nostra portata. E poi vi segnalo due prove narrative. La prima è quella di un giovane, Jacopo Barison, Stalin più Bianca, è pubblicata da Tunnue, 176 pagine, 9,90 euro, dove Stalin è un ragazzone di periferia che affronta con Bianca una lunga avventura attraversando l'Italia, che ci viene presentata da un punto di vista molto particolare. E la seconda prova è quella di Bruno Osimo, traduttore, che quasi ci mente con la scrittura, Disperato erotico Fox, manuale di ballo liscio, pubblicato da Marcos e Marcos, 278 pagine, 16 euro. Un libro ispirato a Lucio Dalla, nel quale un marito abbandonato dalla moglie troverà una nuova direzione alla propria vita, accompagnata da nuovo amore e da un rinnovato interesse per la danza. E con questo ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.